Ciao a tutti i compagni e le compagne che seguono Radio Asilo. Ancora questa volta facciamo una trasmissione diciamo registrata e non in diretta dal centro sociale Asilo Politico. Anche questo ci riporta anche indietro con il tempo, legato alla questione della visita di soliti ignoti, che a quanto sembra, ecco, ormai sta diventando, sperando che si blocchi, si fermi, sta diventando usuale, quindi nei spazi sociali fanno le scritte. A Roma i compagni, e qua abbiamo dato la solidarietà ai compagni dell'USB, depositano e lasciano armi, che diciamo è una cosa molto più delicata, con significati inquietanti. E questo è il segno dei tempi, è sempre, è come dire, a volte uno deve interpretare questi accadimenti. E diciamo, è chiaro che poiché noi siamo abituati, anche noi compagni, diciamo che abbiamo un po' di memoria lunga e l'abbiamo vissuta certi periodi, è chiaro che è strettamente collegata alla guerra, è chiaro che è strettamente collegata, e questo è, diciamo, lo stato emergenziale dal Covid alla guerra. Ed è chiaro che, diciamo, si colpiscono, e sono messaggi, sono minacce a quelle entità che sulla guerra dichiarata dall'Italia alla Russia, cioè il messaggio è chiaro. Però quando avvengono queste situazioni, queste brutte vicende, è chiaro che, diciamo, come dire, siamo in presenza di qualcosa che sarà da venire, siamo in presenza di una guerra preventiva interna che, ricordiamo come esempio più vicino, portò all'arresto dei compagni della rete Sud Ribelle. Quando vi sono dei climi particolari, quando vi sono degli scenari particolari, ecco che si creano quelle condizioni, quelle situazioni che dovranno portare a qualche cosa. E sappiamo bene che, specialmente per ciò che riguarda i compagni, non è una cosa buona. E questo clima che stiamo vivendo, noi, per dire, ecco, a proposito di nuovo l'invito alle compagne e ai compagni, che lunedì prossimo al centro sociale Janassen si svolgerà un'assemblea pubblica proprio su questa questione della guerra, contro la guerra, contro la NATO e contro l'incubo del nucleare. E sì, è importante alle compagne e compagni partecipare a questa assemblea per andare a creare, organizzare una iniziativa pubblica di piazza. È chiaro che diciamo, la situazione è molto delicata, cari compagni. Noi siamo, e non solo noi, ma tutta una serie di compagni, stanno denunciando questo clima pericolosissimo, scenari di guerra e via dicendo. Ecco, lo abbiamo detto in più puntate, in più articoli anche sul nostro sito, diciamo cosa significa questo scenario, che la guerra è una tragedia, è la guerra, è atrocità dovunque, dovunque e dappertutto. E diciamo guerra e atrocità chiama atrocità. Però ecco, questo ci fa venire, proprio ci fa ricordare ciò che è, diciamo, dopo il conflitto, dopo un'altra violazione dello Stato di diritto internazionale del 91 in Iraq, ci riporta indietro col tempo al 99, quando D'Alema, il 24 marzo, ora alle ore 20:45 del 1999, governo D'Alema, dichiarò guerra alla Jugoslavia. E poi entreremo in questo particolare perché vi sono delle similitudini, delle eguaglianze, dei crimini che sono tali e quali. Cioè, per dire un esempio, no? Noi per poter permettere, diciamo, a più compagni, visto che da un punto di vista logistico il nostro centro sociale diciamo, è un po' fuori diciamo, dal contesto urbano, avevamo, diciamo, chiesto ad uno spazio posto in pieno proprio centrale della nostra città, un'associazione di sinistra, di artisti, insomma, di poter effettuare l'assemblea pubblica là. In poche parole ci hanno fatto capire, ce l'hanno detto anche esplicitamente, che prima di tutto che volevano sapere i contenuti. E nello stesso tempo in cui, nello stesso tempo ci ha fatto capire che diciamo, era meglio che non la facevamo all'assemblea perché noi siamo contro la NATO, in un modo contro la guerra e contro i fornimenti di armi all'Ucraina. Questo è il segno dei tempi, però questo l'abbiamo già verificato, già ecco, nel 99, cosa significò la guerra giusta. Di concezione dalemiana. Veniamo anche ora, diciamo, vediamo ecco, a questa trasmissione. È chiaro che chi semina tempesta con la corsa sfrenata al riarmo e della propaganda di guerra sarà sempre complice delle barbarie e delle atrocità che si perpetrano e che avvengono in qualsiasi tipo di operazione militare, sia che avvengono via terra, con le invasioni, con l'occupazione di territori, che con i bombardamenti da terra, da cielo e mare. Però è chiaro che si è responsabili e complici di qualsiasi atrocità chi fa propaganda di guerra, in quanto si riconosce l'uso delle armi come forma risolutoria dei conflitti sia su scala regionale che su scala internazionale. Storicamente e ipocritamente l'Occidente civile e democratico ci sta diciamo, un motivo storico. Responsabili di non aver risolto a suo tempo, in termini politici, il genocidio del popolo palestinese a seguito dell'invasione e occupazione militare dello Stato di Israele dei territori palestinesi. E questo, cioè non aver risolto politicamente, diciamo, un po' di decenni fa, ciò ha creato un terribile precedente storico-politico in quanto le nazioni, tra virgolette, civili hanno abdicato il senso civile della politica alle armi dei potenti e delle superpotenze. Tant'è vero che l'occupazione militare dello Stato israeliano, che si è reso e si rende tuttora complice di atroci crimini, proprio protagonista di atroci crimini contro l'umanità, ha sulla coscienza innumerevoli crimini e atrocità derivanti dall'escalation militare. L'Occidente ipocrita, dal crollo del muro di Berlino e dal disfacimento dell'Unione Sovietica, diciamo, ha designato gli USA e la NATO come unici arbitri, controllori e padroni dei destini del nostro pianeta, che a loro volta gli USA e la NATO pongono sulla testa dei popoli la spada di Damocle, rappresentata dalle armi atomiche, e dalle armi di distruzione di massa come le armi chimiche. E ciò lo sanno bene i palestinesi, i curdi, gli iracheni, i siriani, gli yemeniti. Però, accanto alla questione dell'atrocità della guerra, si aggiunge un altro fatto molto pericoloso e inquietante, perché a volte le peggiori atrocità dei potenti della terra verso la popolazione civile sono state spesso e volentieri narrate e giustificate anche mediaticamente. Questo possiamo, tranne qualche rara eccezione, i colossi delle grandi informazioni filo-atlantista, americana e sionista hanno messo, censurato e giustificato le innumerevoli violazioni dei diritti umani, compreso l'uso sistemico della tortura, privazione di qualsiasi forma di libertà, compresa anche dell'informazione di pensiero, nonostante le centinaia di condanne e risoluzioni dell'ONU e le migliaia di denunce dell'OSCE. In questo più di mezzo secolo i potenti della terra, in primis gli USA e l'Europa, per legittimare le guerre e le continue corse di armi, hanno addirittura coniato dei termini che definirli cinici è poco, termini armi intelligenti, le guerre giuste, le operazioni militari chirurgiche, esportazioni, esportatori di democrazie, difensori dei valori occidentali e delle modernità. Però è chiaro che non si sono limitati soltanto a queste ciniche terminologie. Abbiamo un'altra cosa, che gli eserciti civili esportatori di democrazie del mondo alle varie operazioni d'aggressione militare hanno anche affibbiato dei nomi proprio in perfetto stile propagandistico nazista. E tra questi ricordiamo quello più tristemente noto, che va sotto il nome Operazione Piombo Fuso, dell'esercito israeliano, dove a fondere per le armi a grappoli dal fosforo furono bambini e civili, quasi questa terminologia deridere la morte, le sofferenze e mostrare il profondo disprezzo della vita altrui. Facciamo un cenno storico di questa operazione militare israeliana denominata Piombo Fuso, che si protrattasi dal 27 dicembre 2008 al 18 gennaio 2009 contro la popolazione della striscia di Gaza, e che ha provocato una devastazione, un massacro, un genocidio impressionante, più di 1500 morti, molti dei quali bambini, aggressione militare che alle uccisioni di civili sono derivate miseria, disoccupazione, con più di 20.000 case distrutte e migliaia e migliaia di sfollati. E qua ecco, riportiamo un'espressione, una testimonianza. Centinaia di genitori con i loro figli sono stati colpiti da armi da fuoco, fatti saltare in aria o bruciati con il fosforo bianco. Ecco, poi abbiamo un altro paradosso. Israele e la Turchia mediatori di pace. Il problema che ancora è ancora più cinica ed inquietante, insomma, è come paradosso, è che i massacratori di ieri sono quelli di oggi che addirittura servono a mediatori di pace nell'attuale conflitto russo-ucraino, come quello israeliano l'abbiamo citato, come nel caso dell'esercito turco. Ricordiamo che è coadiuvato dalle milizie mercenari e che sono responsabili di stupri, di torture, bombardamenti su scuola, ambulanze ed ospedale senza preavviso contro le comunità curde. L'elenco delle atrocità nell'era moderna causate dagli eserciti moderni compiuti dagli esportatori di democrazia dall'Iraq, ecco, da Shabra e Shatila possiamo dire, passando dall'Iraq sino ai nostri giorni, l'elenco è lunghissimo. Alle atrocità delle armi, però, abbiamo detto, si unisce l'inquietante e irresponsabile ruolo di coloro che in nome della pace, della difesa, dei valori occidentali soffiano sui venti di guerra, legittimando in tal modo le atrocità della guerra e delle barbarie che si consumano e che poi si consumeranno senza questi, diciamo, coloro che soffiano per la guerra, venti di guerra, e non si rendono conto inoltre dei gravi pericoli a cui l'umanità andrà incontro sul soffiare e andare a legittimare l'escalation militare. Addirittura stiamo assistendo che proprio coloro che dovrebbero almeno porre il dubbio sul significato nefasto delle logge alla cultura della guerra, alla corsa al riarmo, si sono trasformati in veri propagandisti di morte, creando un clima addirittura, anche se noi ne eravamo a conoscenza, cioè lo sapevamo, un clima di caccia alle streghe, verso cui chiunque ponga dei dubbi sulla guerra e sul sostegno militare della nazione italiana all'esercito ucraino, è, diciamo, una caccia alle streghe che, diciamo, chiunque ponga dei dubbi è considerato e tacciato dai principali talk show e dalle principali testate giornalistiche putiniano oppure filo putiniano. E vediamo che a livello, in questo conflitto, si sta distinguendo più di tante altre nazioni per l'apologia di guerra, la sudditanza agli USA e alla NATO, l'Italia, o meglio la nazione italiana, italiota. E questi grandi giornalisti che se la menano ad essere ipergarantisti, democratici, eccetera, eccetera, al di là che se uno segue queste trasmissioni, proprio in modo così palese ed evidente, si nota proprio dal boicottaggio, da interrompere quando, cioè, non fanno finire a chi si pone, a chi pone il dubbio su questa guerra, proprio a livello proprio palese, insomma, cioè, anche quando fanno delle interviste, quando le interviste possono mettere in discussione, proprio come devo dire, questo protocollo che debbono seguire di propagandismo della guerra, proprio assume, cioè, una cosa vergognosa e squallida, così come addirittura c'è stata una forma di schedatura su un giornale nazionale che ha pubblicato un elenco così squallido dei putiniani italiani, dove spiccano tra i nomi Certo Mattei, Stefano Fassino, Laura Boldrini, Barbara Spinelli, proprio la figlia di Altero Spinelli, padre fondatore dell'Unione Europea, alla faccia dei sostenitori della democrazia, dell'europeismo e via dicendo. E tanto è vero che tutti questi giornalisti, teleconduttori, talk show, non hanno fatto alcun cenno all'appello pubblico di 11 storici inviati di guerra dei grandi media nazionali, Corriere, Rai, Lanza, TG5, Repubblica, Panorama, Solo, 24 ore, che hanno lanciato l'allarme sui rischi di una narrazione schierata e ipersemplicista del conflitto nel giornalismo, del conflitto attualmente in corso, in opera, conflitto russo-ucraino, nel giornalismo italiano. E figurati che l'appello è uscito su un quotidiano online, Africa Express. E per dire, citiamo dei nomi che non sono antagonisti, sono Massimo Alberizzi, Emicio Bene, Toni Capuzzo, Renzo Cianfanelli, Cristiano La Ruffa, Alberto Negri, Giovanni Polzi, Amedeo Ricucci, Claudio Svamba, Vanna Vannuccini e Angela Virdò, che diciamo dicono che la propaganda di guerra ha una sola vittima, il giornalismo. Allora, come abbiamo detto, abbiamo parlato del ruolo mediatico, abbiamo parlato anche all'inizio, abbiamo parlato della questione della guerra giusta. Cioè, voglio fare alcune interviste di un noto personaggio politico, no? Dell'epoca. Allora, era moralmente giusto esercitare e anche il modo di esercitare pienamente il nostro ruolo, così come, diciamo, le stesse frasi che dice Draghi, guarda, ci prenderemo le nostre responsabilità al pari degli altri paesi dell'alleanza. così come diciamo cioè proprio è una cosa, guardate, che se uno è veramente è una cosa vergognosa, così come definire il nuovo status di grande paese. C'è frasi che si ripetono sempre, frasi che diciamo le vediamo ogni giorno, il ruolo dell'Italia che non possiamo fare finta di niente, il ruolo dell'Italia che dobbiamo rispettare, cioè come dire, è una cosa per dire, ecco, dobbiamo dire chi è questo individuo. Era Massimo D'Alema. Massimo D'Alema, è bene ricordarlo perché Ischia continua ancora a girare tranquillamente in mezzo a noi. Ricordiamo che Massimo D'Alema è entrato nella storia per aver fatto partecipare l'Italia all'aggressione criminale della NATO all'ex Jugoslavia. E tanto è vero che diciamo Clinton, perché già era pianificata l'operazione, Clinton, questo l'ha detto anche, come dire, lo ha enunciato, scritto addirittura in un'intervista, che Clinton, che D'Alema era stato convocato a Washington da Clinton, che gli aveva proposto: l'Italia è talmente prossima allo scenario di guerra che stiamo preparando che non vi chiediamo di partecipare all'operazione militare, è sufficiente che mettiate a disposizione le basi. E questo individuo D'Alema gli aveva orgogliosamente risposto: ci prenderemo le nostre responsabilità al pari degli altri paesi dell'Alleanza. Ovvero che l'Italia avrebbe messo a disposizione non solo le basi, ma anche i propri cacciabombardieri per la guerra alla Jugoslavia. E infatti ai bombardamenti parteciperanno 54 aerei italiani attaccando gli obiettivi indicati dal comando USA. Un'altra frase: era moralmente giusto ed era anche il modo di esercitare pienamente il nostro ruolo, spiega D'Alema, sempre nell'intervista del 2009. L'Italia è un grande paese e non ci si deve stupire dell'impegno dimostrato in questa guerra, sempre nelle sue dichiarazioni del giugno 1999, in veste di Presidente del Consiglio, sottolineando che per i piloti era stata una grande esperienza umana e professionale. Guardate, è una cosa vergognosa, è una cosa vergognosa. Quando, allora, cioè, come abbiamo detto proprio, c'è cioè Massimo D'Alema, cioè che lo chiamano anche compagno qualche formazione politica di una sinistra sinistrata. Massimo D'Alema è entrato nella storia e teniamo un coppa sulla nostra coscienza, teniamocela. Non ce lo dimentichiamo mai, questo individuo c'ha sulla coscienza Ocalan, rappresentante e padre del popolo curdo, proprio cementato vivo dal mediatore di pace Erdogan. Allora, proprio, è vergognoso, guardate, Massimo D'Alema, ricordiamo che è entrato nella storia perché ha fatto partecipare l'Italia all'aggressione criminale della NATO, questo l'abbiamo detto prima, e diciamo è tutta questa, diciamo, proprio criminale della NATO all'ex Jugoslavia. Diciamo è che in quel periodo in Occidente nessuno si preoccupava di violare il diritto internazionale e di fare una guerra addirittura contro il parere del Consiglio di Sicurezza. Lo stesso D'Alema, poi, è coinvolto nella creazione di una grande Albania che include l'attuale Kosovo. Basta ricordare, ecco, il 24 marzo 1999, che Seffria di fa, sto gran figlio della mignotta, che poi i personaggi di oggi sono quelli di ieri, tranne Mario Draghi, però le frasi sono identiche. Il 24 marzo 1999 la seduta del Senato riprende alle 20:35 con una comunicazione dell'onorevole Sergio Mattarella, allora vicepresidente del governo della Lega, tra parentesi, Ulivo, PDC, Udeo, che diciamo con queste parole: onorevoli senatori, come le agenzie hanno informato, alle ore 18:45 sono iniziate le operazioni della NATO. E infatti, in quel momento, le bombe degli F-16 del 31° storno USA, decollati da Aviano, hanno già colpito Pristina e Belgrado. E, diciamo, stavano arrivando le nuove ondate di corcibombardiere diffuse da alleati e partite da altre basi italiane. Quindi, oggi Presidente della Repubblica è Mattarella, Presidente del Consiglio Draghi, che però ripete le stesse parole e gli stessi metodi della, diciamo, di D'Alema. E tanto è vero, oggi come ieri, il Parlamento non ha mai dichiarato, il popolo italiano non ha mai dichiarato guerra alla Russia. Questo hanno deciso e basta. All'epoca addirittura c'è la vergognosa situazione che manco informi il Parlamento, dice: cari onorevoli, come avete già visto dalle agenzie, quindi dalla stampa, dall'ANSA, oggi guardate che l'Italia ha dichiarato guerra alla Jugoslavia. E quindi, in tal modo, come è stato violato nel 91, così nel 99, e quindi anche oggi nel 2022, gli articoli 11, 78 e 87 della Costituzione italiana sono stati violati. E l'Italia viene trascinata in una guerra, cioè in cui il governo informa il Parlamento dopo le agenzie di stampa, cioè quando la guerra ormai è cominciata. Guardate, è una cosa vergognosa. E vediamo che l'Italia quindi assume, come oggi, un ruolo di primaria importanza nella guerra alla Jugoslavia. Dalle basi in Italia decolla la maggior parte dei 1.100 aerei che in 78 giorni hanno effettuato 38.000 sortite, sganciando 23.000 bombe e missili che a livello di che sono tonnellate, ce l'ho scritto da qualche parte, quante tonnellate, insomma, cioè sono tonnellate e tonnellate di armi vomitate sulla, diciamo, in terra jugoslava. E vediamo che sono state 23.000 bombe e missili, molto ad uranio impoverito, sulla Serbia e sul Kosovo. Guardate, è una cosa vergognosa. E vediamo, che proprio è una questione che, se uno rivede le scene di cui oggi noi, come devo dire, stiamo assistendo, vediamo che ciò che, diciamo, Gianni Letta, quindi non è, come devo dire, Gianni Letta è la continuità, come noi all'epoca l'altra televisione abbiamo detto, è figlio della politica della scelta filatlantista iniziata da Berlinguer, proseguita da Massimo D'Alema, che arriva a Renzi, che arriva a D'Alema, che arriva a Renzi ed ora Gianni Letta. Quindi Gianni Letta non ha fatto altro che dare continuità a delle politiche filoatlantiste già che provengono da lontano, insomma. Quindi è una cosa micidiale, insomma, cioè, non peraltro noi ancora delle bombe ad uranio, noi ancora abbiamo i problemi dell'inquinamento del mare, dei laghi, persone che ancora muoiono, di militari che sono ancora ancora muoiono, insomma, e figuriamoci quelli che hanno sparato, figuriamoci che hanno subito queste armi all'uranio. Allora, vediamo che il costo, il costo di delle sole missioni dell'aeronautica militare italiana è stato di 65 miliardi e mezzo di lire, mo in euro a me ne sarà quanti miliardi di euro, ma non so, cioè, quando, il calcolo dalla lira all'euro. E il crimine di guerra, abbiamo avuto, quasi parla, di 2.500 persone morte sotto le bombe. E diciamo, con 89 bambini morti, alcuni parlano, altre fonti non governative parlano di 4.000, con 89 bambini morti e più di 12.500 persone ferite. Ecco, ho trovato la quantità di missili. Allora, abbiamo avuto, sono furono effettuate, allora, 2.300 attacchi aerei su 995 strutture in tutto il paese. Furono sganciati 420.000 missili per complessive 22.000 tonnellate, con, ecco, proprio le guerre intelligenti, chirurgiche, interventi umanitari, le guerre giuste ed umanitarie, 37.000 bombe a grappolo con l'uranio e con altre, diciamo, con usate munizioni che erano, l'uranio erano vietate da tutte le convenzioni internazionali. Guardate, questa è una cosa, ecco perché, ecco, noi dell'atteggiamento, diciamo, dell'atteggiamento dell'attuale Letta non ci possiamo meravigliare, quando ha un precedente storico così famoso e che ancora oggi con le armi, specialmente ai narcotraffici, ai narcos, ci ha sempre avuto a che fare. È chiaro che, diciamo, quella, diciamo, come devo dire, è D'Alema, è sempre responsabile, tanto è vero, partecipa a Washington, nella 23-25 aprile 99, che va a determinare un concetto strategico della NATO, che diciamo, contribuisce, quindi, diciamo, e conduce, impegna i paesi membri, viene anche sancito, a condurre operazioni di risposta alle crisi non previste dall'articolo 5 al di fuori del territorio di alleanza. Quindi la guerra, diciamo, che siamo il conflitto russo-ucraino, la NATO ha un precedente, per cui qualcuno gli viene a dire: scusate, ma che cazzo state combinando? Io gli ho detto: guarda, ha cominciato D'Alema, e chi ha determinato la nuova crescita, le nuove, diciamo, il ruolo della NATO, con regolamenti e via dicendo, quindi viene da lontano. Il precedente l'ha iniziato D'Alema sotto questo punto di vista, allora l'aveva già iniziato con l'Iraq, però all'epoca non c'era D'Alema. E quindi dopo questa situazione inizia l'espansione della NATO adesso. Quindi, come deve dire, e quindi in 20 anni, dopo aver demolito, diciamo, la Federazione Jugoslavia, la NATO si estende da 16 a 29 paesi, che poi sono diventati 30 con la Macedonia. E quindi si ha avuto un'espansione la NATO, le basi NATO sempre più a ridosso della Russia. Questa, cioè, ma la cosa più vergognosa è come, ecco, le frasi, il ruolo dell'Italia, questo e quell'altro, noi abbiamo un ruolo importante in Europa, eccetera, eccetera. D'Alema definiva con orgoglio: ecco, noi, l'Italia, ha un nuovo status di grande paese. Quindi, allora, è un macello. E poi è chiaro che poi non, ecco, di cosa meravigliarci, se, per dire, a livello diciamo anche nel dibattito sulle armi atomiche dal dopoguerra ad oggi, le quattro superpotenze come gli Stati Uniti d'America, Gran Bretagna, Francia e Israele insieme alla Russia di Putin hanno le testate atomiche e diciamo quello che ha fatto Putin non ha fatto altro che mettere a nudo l'ipocrisia delle altre potenze che sono potenze atomiche e che tutti quanti minacciano l'uso direttamente o indirettamente delle armi atomiche. Così poi il problema vi sono anche persone che si battono sempre per il rischio, contro il rischio di una catastrofe nucleare. E guardate un po', cioè per dire, è proprio cioè, rispetto alla politica di denuclearizzare, di mettere a bando le armi nucleari, per dire, ecco, dal 21 al 23 giugno mi sembra che tutti i governi che hanno aderito al trattato per la proibizione delle armi nucleari si vedranno a Vienna. Però l'Italia non solo non è chiara che era stata invitata, ha già detto che non parteciperà. Questo è quanto la lunga onda di quel che Enrico Berlinguer, pace all'anima sua, combinò e che i suoi affiliati negli anni fino a Gianni Letta cioè, stanno continuando, insomma. Cari compagni e cari compagne, alla prossima. Ciao.